ma sei tutto troppo reverbero, cioè no, ma so io, non ricordo. Sì, così va bene. Mettilo appena appena, è lo stesso bip di quello canale 20, è già quello della radio. Metti appena appena di eco e lasciala così, è più amplificata. Sì, perfetto, adesso è perfetto, poco fa era troppo. Perfetto, ancora più bella. Non toccare l'eco però, così è più amplificata, più bella. O puoi anche lasciare leggero leggero così. Così è amplificata senza eco. Però non sta vicino al microfono, la bocca, dice no, ma prego sì. Ma non è come te l'altro turbo che vai. Se te la avvicini diventa nasina quella lì, capito? Sì, è feo burro, Sì, così non ce n'è, molto meglio. Io ho appena appena di eco, ma leggero come era poco fa. E lasciaglielo così, più amplificata e meno cupa, capito? Prova? E il segnale del C80 c'è. Io beh, al minimo c'ho 20 watt. E appunto gli avvicinamenti lo buildi. Sono circa quasi 30 watt, quindi più o meno sei come usi il C80. Prova? Così a manetta sì. E si dice. Vai da 9.18, 9.20 a 9.25 quando si è a manetta. Segnale tuo di quando sollevavi a picchi di 100 o C80. Ma te l'ho detto al telefono ieri, è un bel baracchino, completo, bello, funzionante. Io ti ripeto, l'ho avuto 6-7 anni fa, se non me ne ammetto, forse più 7-8 anni fa. Però il modello quello senza la pancia, per capirci, no? No, chi doveva io non aveva pancia, lì invece va la pancia. Sì, bel frontalino, display rosso, strumento verde. Va bene. Insomma, la versione c'avevo io era 25-50, quello 50-100. Devo cambiare radio, Massimilia. Devo cambiare radio, devo mettere l'altra, capito? Puoi andare tu in banda laterale, vai, io ti ascolto, vai. E poi te lo dico dopo se sei centrato, vai. Sì, leggermente. 0 anzi che 75, 74,90, ma è la differenza che c'è tra l'HF e il baracchino. Non è niente, va bene anche in banda laterale. E io qua sogno. Cattali! Oh yeah! E te se fa attendere? Mi no che so. E mi diceva Massimiliano, stava facendo una prova col baracchino. Io sono arrivato poco fa, adesso mi sono seduto un po' a rilassarmi, ma tanto. Sono risetti ma così. Ancora sino alle 7:30, 8:20. E allora, sta a posto. Mo, tutto a posto da mettere a posto. Sì, ieri entrati siete in radio. Eia. Salutati Mirai, io sono entrato, quando ti ho mandato il messaggio, stavo rientrando dall'Isola Rossa, sono entrato pure alle 8. Non è più da. È entrato Giulio, Gianni, Marco, io. Grazie a voi, non fai mai nessuno, lo benedetti. Mi sa che vivi di fantascienza, che sono buono. Vabbè, comunque l'importante è che ci sia qualcuno, giusto così per sapere che ci siamo, che siamo vivi, che non siamo morti. Ma che stai entrando un bel tardi al lavoro, non te li trovo. Io questi mesi, giugno, luglio, agosto, sono una macchina da combattimento, poi a settembre, allora ando in ferie, quasi tutto settembre. E allora ci rilassiamo. Eia, c'era anche Luca ieri, del Monte, capito? Ah, entrando sta. E io vabbè, anche Luca impegnato. E io un po' così, No, meno male, in questi giorni c'è un po' di fresco, si riesce a fare del chiappio, perlomeno in questa stanza mi so sempre, quel periodo scorso mi diceva mia moglie perché non stavo manco rientrando. Erano i 27-28 gradi, come ti va che erano da vento. pace, oggi ce n'è 22,5, finestra aperta, insomma, c'è un bel maestralotto, si sta bene. È arrivato a Pignara, entra in via. Ehi, c'era anche ieri. Oh, caspita. Allora una prendendo a Plattamona. La vana è dato lo sfratto alla bizzina, poi dice che una prendendo a Plattamona. Ma te la pone in qualche convento di frati. E addio, mi Marco ci fa i briti. Se tutto va bene siamo rovinati. Se tutto va bene tocca mandare la fotografia che hai mandato tu, mi. Avvirumi. Padre Marco, no, tornato a Pignara. Marcolino, ma niente, dice, non ti ci mangiano i cucciucci. Mamma mia, come sto? Mastro Giù, Mastro Giulio. Non respira la stasera. C'è la mania di banani. Alza di la gentesi, c'è la mania di involtini. Ma di chi di ginesimi? Non ho fatti da Edino. Li ricomparati? No. E cosa ci vuole fare gli involtini? Prendi la carne, li vuoi fare di carne fresca, ci metti la carne macinata dentro. Capito? Ben condita, tutto. Vuoi fare di verdure, di pesce. Quindi due, tre merluzzi, li friti bene, tre cubi dentro, aglio, prezzemolo, peperoncino, avevamo già la praia. No, comparati, dalle ginesi, ciuppa. E involtini primavera, E vabbè, ma non siamo in primavera, no? Ci muoviamo in tal marzo a comparacci. Arriva una cosa da giurato. C'avevo un po' di carne macinata, là. Mi ho fatto le polpette al sugo e col sugo delle polpette mi ho condito la pasta asciutta, male sono andato. Non penso proprio, magari due gnocchettini, no? No, io la verità ho con 3 di mania di giochizza, Natale. E ne ho anche per stanotte. Stanotte mi bocio d'oro, un quartino di vino, due lomacchine, capito? Mi è arrivato un chilo, ma in 2 di li ho fatte fuori. A me 2 rettine me ne hanno regalato, cazzo. Infatti, ne ho giocato un poco, non mi ammenta qua. Però, quelle lomacchine che le aveva ammalate con sé, un pochettino. No, io non ho giocato a nessuno, ho giocato in 2 tranche, le bollite tutte, ne ho fatto una parte ieri e una parte oggi, ne ho fatto una volta, capito? Le facciamo mi bocio, non guardando in me, qualche cosa in TV e ci accendi. Ciao Conce, non far ingrassare quel ragazzo, mi. Conce. Cosa c'è? Non lo far ingrassare il subizzino, mi. Ah, ma lo posso ingrassare, vero? Allora sai, balla mia, non le ho date a nessuno, no, tutte noi ce l'abbiamo mangiata, perché il giorno dopo di aver cucinato una di quelle rettine, è venuto mio fratello, l'ha giocato, chi si è abbassata asciutta col ragù, a da voi avevamo attaccato al succiato, chi si giochitti, rubattato, l'ha giocato, ma una bomba. Sì, anch'io ho mollito un po' di patate, ho fatto insalata, però... capito, poco giochita e un po' battata. Era buona, bella grassa, ma no, la Natalia, la Trinità, capito? Però l'aveva fatta prima di piovere, perché poi ha piovuto e non veniva più. Ha piovuto forte lì in quella zona, capito? Poi due settimane fa, e quindi non veniva più. Si è tutta praticata, ha portato l'uomo e quindi non ha fatto più. Adesso c'è un po' di macconi, mi ha detto se le volevo, ho detto portameli. Poi fermo a domenica. In forno, ripieni, capito? Tanto male non ci vado. Lavorami domani, sabato, domenica sono libero, poi lunedì. Però c'è un corso di aggiornamento, sono a Cagliari e quindi non ci sono neanche in tutto il giorno. Che senso, si andi in Africa, glielo credo. Te lo odio quel posto, ci vado pochissimo, ma quando ci vado un caldo che va in chi ce l'ho così a Antonio mio. Noi che abbiamo 20 gradi, che là ve ne è 30. Ucci. Non so, abbiamo un corso di aggiornamento per il PLC, per i sistemi di allarme. Capito, così. Ci danno l'attestato, con l'attestato di che serve per servire, insomma. Lo facciamo. E un po' gli anni che mi mancano, si abitano in luce, dico attestati e le testate buone. Sì, infatti. A me mi sono venuti l'attestato della sicurezza e non me ne hanno dato. Dice che dura 4 anni, non so, quella che abbiamo fatto noi. Ah, quella della sicurezza. Sì, sì, anche quello abbiamo fatto noi questi tutti. Tutti abbiamo fatto. Non ti mettere mai il rappresentante alla sicurezza, perché è una rottura di scatto che l'ho fatto un anno, guarda, cari, non te ne dico. Non te ne dico. Alla fine hai condannato a me, io condannavo all'arte che ancora cattavo in fragranti, hai giù mai condannato a me, capito? Lascia perdere. Infatti. No, abbiamo fatto anche il corso antincendio, primo soccorso, nulla, noi rappresentanti di niente, sarragliani, già vi l'architetto vi era rappresentante della sicurezza. No, la rappresentante della sicurezza è una cosa seria, mina, non è un gioco, capito? Fino a quando c'è il rappresentante siracale, RSU, va bene. Ma il rappresentante della sicurezza è una cosa seria, non si può, non si scherza, Non si scherza, perché dice di mezzo la prefettura, ci sono di mezzo un sacco di autorità, e quando succede qualcosa il primo che chiamano in causa è il responsabile della sicurezza. E se la cosa che non anda, condanneggiano a te invece condanna a Ghito. Infatti, no, a me non mi interessa niente. Io da voi, pure se mi fate di primo soccorso, dove sta qui? A chi mi devo quanto è un dottore? Mio Massimiliano. E tu ce l'hai fatto di servizio di primo soccorso, quindi non è ti puoi lamentare. No, io non lì. Però il rappresentante responsabile della sicurezza l'ho fatto per un paio d'anni. Tu, come ti sono state le elezioni, ha giocato di più di emissioni. Vai. Avanti Massimiliano. Massimiliano, ti taglio il riposo, cosa non ti sento? Non sto uscendo bene. Stai uscendo bene. Ah, boh, te ne uscire. Come dice che non stavo seguendo, che mia moglie mi stava facendo vedere una cosa. Ma cosa hai? Roba da mangiare. Non c'è, fai la brava, dacela a pedisci un bizzino. Oh, signor, manco sentito che è in cucina. Ma Lucia, è meglio la gente dice lui. Fai la brava, lascia le sa, il peccato, il suo periodo. A voi, toccati dentro il ventilatore, avventuriati. Wallace, perché quanto ti sto arrivando? 9, cazzo c'è 9 vinti il vinco tu? Pensava via le mani moncoli? O era bisogno di arrubirti? Lasci perdere un bicchiere d'acqua questi professionisti di baracchini. La prima cosa che bisogna fare è regolare sempre lo smitter, controllare se tutti a posto. Ciao maledetti, ma dov'è il trimerino dello Smith che c'è Claudio Spagliero che non arriva? Ma a Bruto ci andiamo a danzare, voi ti pigliate direi. Ciao minore, mi raccomando, la danza del ventre e falli a Claudio Spagliero. Ciao, Massimiliano, prossimo. Buon tutto. Controlla mia Daniela, mio Massimiliano, capito? Fino a poi di rimasci che mi sono anch'io. E te c'è il capo e bugnere. Ma già andato ce n'è. Marcolino Condor, Crumido, dove sei? Marcolino? Quel ratto a Pignara mi delude, ragazzi. Ieri era qui parlando e adesso non è entrato oggi. È un ratto a Pignara. Non so lui come. A giorni alterni, magari si è dormito in chibiro di vano. Va bene la televisione. Capito? Se no è su internet. Prendendo appunti. E allora? E Valerio più sentito c'è, Alghero, Giuseppe, nessuno è più entrato. C'è successo questi algheresi? E c'è successo. La gente se ne sta andando in giro, va. È entrato Gianni ieri, Luca, Giulio, e oggi Nuda, per esempio, vabbè, ma è giornata così fresca, sono usciti a passeggio. Sono giorni da un po' che non lo sento. Vabbè, io ti ho usato, ti ho aiutato. Sono impegnato a lavoro questi mesi. sì, bisogna lavorare un po' di più e poi già ci riposiamo a settembre. E tu cosa vuoi? Già sì voi? Questo giorno di settembre già vuoi sì, che si è piombato i occhi. Oh, io sento troppo Massimiliano a te, mi finito. Amici, la Massimiliano, ma tanti soldi, Massimiliano entra dai occhi. Cosa c'è? Natalino c'è. Natalino c'è, sì? Non c'è Massimiliano, è andato a danza. A danzare è andato. Ciao Filippo! Mi. Sì, sì, dai, Natalino. Chi è Filippo adesso? Natalino, eh. Ah, quello che ti volevi. E cosa ti ha, nonno? Ci non me ne chiedi bene. Domani ti ciabatte e muore, ti ringhi i diti. Ma lo sai perché ti lecca i piedi almeno? No, dice che è un segno di ricordo. Gli toglie la stress a lui, capito? Gli toglie? La stress, deve essere un po' stressato, capito? Ah, così, quello lì, lo stress ci vai qui. Non te, stressato, sì. Cazzo, non metto il padrone tu, sì. Se è stressato, vai, tu l'altro lì. Mi sa giù io, lui, la regia di manzana, la regia. Tutta la virata. Oggi ho mangiato l'R4. Figurati tu. E poi ci ho rientrato. Via, via. Vabbè, allora ho casa. E vabbè. Sei in giro fino a settembre e poi già ti riposi. Alle 2 sei a casa. Sì, a settembre almeno 25 settembre me ne va. Adesso non posso. Troppe cose da fare, troppo movimento. Troppe cose da seguire, se no è un casino, poi ti rimangono indietro, è vero, un pasticcio. E vabbè, già sei pagato per travagliare, quindi bisogna travagliare. E poi, hai visto, se passa quella legge, esce, ci si abbiglia e volasi. Quelli nati prima era 80, e via, no, dopo 80 mi pare, ora non me ne ammetto. A 72 anni andare in pensione, lo vacuino andare in pensione, lo vacuino per il cuglio a capo a tutti i gatti. Ma non è una panegabu, sai, gente, ma vedrai che la gente si ribella, mi. E succede casino forte, sia per i migranti che per queste leggi del cazzo che stanno facendo, boh. Capito in favore ai ribanti e a mangiarsi a noi. E che va chi non ne viene a pagare il pensione? Ma come fai tu andare in pensione a 72 anni? No? A 72 anni ero in pensione. Una roba da mattina. Io ci ho ribato a 60 anni, figurati a 72 anni. Per carità, c'era una rivolta lunedì a Padueta lì all'Acqua Fantasy, che ti ho detto che c'è quel villaggio di negri, saranno un 200. Sono nigeriani, marocchini, ci sono pakistani, di tutto. Beh, c'era una rivolta, c'erano tre pattuglie del 113 da Tempio, proprio del 113, da questo è Tempio. Poi erano tre o quattro pattuglie di carabinieri, capito? Lo sai cosa vogliono? Eh? Cosa vuoi? Cosa vogliono? Vogliono la carta d'identità e il codice fiscale. A chi cittadino italiano si vai a matta di rabilitarsi, le questure non devono rilasciare nessun certificato di nessun genere a questa gente. Banda Siri, Zubidu, non devono accogliere nessuna richiesta di asilo politico. A chi si lo sono mandati? Si elimini i manda. Allah è grande. Maometto è il suo profeta. Però io c'ho il fucile sempre pronto, caricato a palla a me. Ciao Marcolì. No, ma davvero, io non... Così 5 minuti stavo discutendo con il maresciallo di Trinità, mi ha detto... Si metteva a ridere perché, ma... Come fai tu a farlo? Ma il casino è dalle 5 del mattino. Tu figurati che l'Acqua Fantasy non ha neanche aperto lunedì. Ci sono stati vita di 9 metri, dietro, in mezzo di strada, in Chivi, un casino, infatti non sono arrivato io, c'è la stradina che io scendo all'impianto a prendere le letture dei contattori. A giornata nessuno si puzzava, gli ho cominciato a camminare e si puzzavano, beh, non ti puzzi. Uno si è accorto che lo curo a un goffo del violino, ho detto, amico mi c'è da fredda, insomma. O ti lesci o ti caffigheggio. Quello sui nigeriani, la peggiore razza cazzo esistente, mari cazzo, a chi so fappone, cazzo, spaccia loro, dici di becchi di agghini, quella niente cazzo. Ma perché Marco, possono rifarla una cosa del genere secondo te? Cioè possono richiedere, voglio la carta d'identità e il codice fiscale, per fare che cosa? Marco, cazzo, date l'evasanta, va, è abusinato. Perché è un crumino. No, ma comunque poi quando stavo rientrando ho visto non c'era più nessuno, ho chiesto che il manutentore del villaggio, e beh, non lo so, qualcuno, hanno fatto un comitato, sono andato in questura a parlare con questore. E quanto mi arrivo questore, ha già diviso il tempo con quattro gargoni del genere, pinghinosi, ma non sta via. E infatti manco ricevuti li avrà. Non riceve la gente normale, il questore, figurati questa gente qui. Non capisco, perché non ho visto ancora la Montoni. Padrona della tua fantasy, a chiedere a vedere, che il villaggio è suo, capito, proprio attaccato alla tua fantasy. Che a Valeria ha avuto la polizia che sai, mi sale di una ghipiglia della regione, Pucci. Allora, lo fanno per soldi e buoni, sai, niente, no, ha compreso. E guadagnano un bel di una pulpa. Ah, questi sono servizi reveritimi, Natali. A mezzodì per la messa anch'io, capito? A mezzogiorno vanno tutti in messa. Da mangiare, ci sono i cuochi, i lavapiatti, chi si fa nei gamma, chi si fa nei buizi. Non è poco di niente, a disposizione di chi sa niente, no. Poi sarei passato a vedere con un mitra al Chivi, ma qualcuno ne era rimasto. Ma io non dico di non aiutarli questa gente, aiuta il cazzo nel loro paese, cazzo, buttaceli in mare, non ne guardi via altri, cazzo. E quello è il discorso, Cla, aiutali nel loro paese, le carceri, ecco, lì si sono condannati, bigliari, e trasferiscili al loro paese, la galera se la devono fare nel loro paese, non da noi, che da noi costa un detenuto. Secondo me siete tutti gelosi, quelli sono pagati e non fanno nulla, c'hanno vitto alloggio. E infatti glielo ho detto al comandante di Trinità, gli ho detto guardi che alla Ginara io ci ho lavorato nel periodo estivo, andavo il martedì e il venerdì, è tutto già bello pulito, ordinato, ci sono tutte le case, c'è a Fornelli, c'è il villaggio dei detenuti che lavoravano, a Cala Reale, vabbè, è troppo, Cala Reale è troppo bello per loro. Ma te ne scusi, una base a Fornelli, una base a Cala Oliva, ah, lo sai che hanno tutte le belle, non può andare a luogo, se ne va solo lo bagno. E ci vuole fuggire, tranquillo che non può fuggire. Oh, con la corrente in chi, cazzo. Buonasera a tutti, dai, sono arrivato adesso. Eravamo a ritirare una ricetta, poi comprare medicine, poi da Eurospin. Comprare due cose. Bene, cosa è successo, Claudio? Non ho sentito bene che non hanno aperto l'acqua fantasy perché cos'è, tutto pieno in strada di questi? Una rivolta c'era dalle 5 del mattino fino alle 10, c'era poco giustizia, questura di Tempio, carabinieri di Trinità, di Badesi e della camionetta di Santi Sommosa, ma un casino hanno fatto. L'acqua fantasy non è neanche aperto perché non c'era nessuno, come fai a... I turisti andare lì e vedere tutto questo manicomio. Ma a 200 passioni vedono i miei la carriera. E poi io sono sceso lassù, fa Trinità, e già si vedeva tutto il casotto. Poi quando sono arrivato sotto lì a Paduleta, ho visto che erano tutti in mezzo a strada, hanno iniziato a farmi il posto, avessi sepolcati e infatti c'erano i carabinieri, dice faccia passare, toglietevi dalla strada. No, guarda lì, tavi. Ti cazzo che giù, mi dà uno, ha giocato un colpo di goffo, no? Avesse portato, Cesso. Capito, ogni tanto fanno le rivolte perché non si trovano bene, capito? Vorrebbero di più. Aspetta che gli assegniamo una casa, un appartamento a testa, qua roba da matti. Lì ci voleva la... Caspita, la polizia è interrotante, ci ha mozzami, a manganellare. Benvenuti in Italia, gli avrei detto, ma manganellandole di brutto. Lì ci volevo io col tonfa, che li facevo nuovi nuovi. C'era una camion, due, c'era una camionetta, mi sono mosso, capito? Pronti a intervenire se facevano così. Cattivi sono in macro, cattivi. Vogliono la carta d'identità e il codice fiscale, capito? Non lo so quando già riceve, poi si tira in culo, comunque, vogliono la carta d'identità e il codice fiscale. E hanno fatto un casino di Gesù Cristo. Non so quanto sono belle, non so se è mandata la confanta, se quel villaggio che c'è di fronte alla confanta sono tutte villette a schiera, mini appartamenti da due persone, no? Sono tutte, ce ne sono 200 di questi qua, 200, con giardino, c'hanno il campetto di pallacanestro, il campetto di calcetto, c'hanno di tutto e di più, capito? Hanno di tutto e di più, ma ci compreso cosa vuole ancora? Ma vogliono la carta d'identità, cioè italiana la vogliono, il codice fiscale in modo da accedere anche, non lo so, vogliono la carta d'identità italiana, così è. E allora? La carta d'identità italiana valida per lo spatrio, capito? Più il codice fiscale vogliono. Cazzo, a chi cittadino italiano si va a dare la carta d'identità italiana? Ma il peggio è che certe amministrazioni sono talmente di sinistra sempre, sono talmente mentecatti, che è capace che gli danno la carta d'identità a questi, italiana, come se fossero italiani, capito? Proprio da matti. Allora ha ragione Fabrizio quando dice che ci voleva una passata di Pio Benito. Se si ne è scendato. Ah, ma bisogna che si scenda Pio Benito. Bisogna svegliarci noi, capito? Il governo italiano che si deve svegliare, perché è veramente uno schifo. Ce ne sono, guarda, di questi 200 forse una decina che lavorano. Ce ne sono due che puliscono i giardini, due addirittura che la mattina presto alle 7 lì alla confanta si puliscono tutte le sdraie, lavano gli ombrelloni, sistemano tutto. Ce n'è un altro che fa parte lì del gruppo Delfina, un ragazzo lo stesso negro, non so se è senegalese, forse è senegalese, perché parla, sì, parla molto bene il francese e anche l'italiano, senegalese. E lo stesso pulisce le strade, lì fuori la reception, i giardini, la piscina pulisce, capito? Ma gli altri, tu passi a Redenti di Manzano, sono tutti bussati, Bora, Guricatrei, Gliente, Girofresco, Rusori, e te vecchi hanno molto di vecchi. Sì, guarda, secondo me quelli che lavorano sono senegalesi, boh. I senegalesi sono sempre venuti a lavorare qua, anche a fare, che ne so, anche vendita così ambulante. I nigeriani no. I nigeriani no. Mamma mia. Mamma li turchi, come si diceva una volta, mamma li turchi, questi non sono turchi ma sono sudafricani, è anche peggio. Ora io li vedo spesso, i nigeriani sono molto più scuri rispetto ai senegalesi, capito? I senegalesi sono molto più pacati, sono tranquilli, sono sempre un po' goso della reccia, correndo in musica, ti salutano perché sono anche abbastanza educati. A volte mai qualcuno fuma, mi fermano per una sigaretta, ma i nigeriani no. No, questi che sono in forza lì al gruppo Montoni e Delfina sono tutti senegalesi, non sono nigeriani. Natalino sicuramente è contento di ospitarne una decina in casa sua, mi se li corica nel letto pure. E vengano qua. Io mi ricordo cosa aveva detto Graziano tempo fa. Dice che me ne diano, che me ne facciano ospitare una di quelle femmine nere, dice che le faccio l'uguro a tana di grillo, ha detto. Ehi, alla là! Propagazione. Ah, propagazione. Io allora. No. Non copiamo a quest'ora, non copiamo. No, comunque davvero io sono rimasto molto da quella zona, soprattutto ce ne sono altre zone, c'è quel villaggio su Atrezza, Campesi, su dove c'è il campo sportivo, dove bisogna fare anni di proprio Iosso, dove c'è il turismo, dove c'è, ha calato tantissimo l'acqua fantasy. Domenica, vabbè, c'era, cioè lunedì c'era un po' di maestrale abbastanza forte, però non c'era nessuno, ci sono sempre questi in mezzo ai piedi, mangio un pesce. Sì, Platamone invasa questi nigeriani. L'ultima volta che ero al mare c'era più nigeriani che italiani a Platamona, lo sai. Poi c'è un vai e vieni, poi te l'ho detto, no? Questa si piglia una seggiolina sua, si è attaccata alle mie borse, attaccatami! E crepa, quando gli ho detto che sono scattato, dice, ah, perché sono sue? E no, di chi sono? Quella crepa le avessero lasciate incustodite, così si rubava tutto. C'era proprio un via vai continuo, a piedi, in bicicletta, arrivavano in spiaggia, si guardavano intorno. Molti stanno alla rotonda lì in avvistamento, appollaiati proprio, alla rotonda che stanno a, così, a guardare, a seguire le mosse, però chissà perché. Una volta mia mamma eravamo sempre con la faccia verso la riva, non sia che questi toccassero roba, basta una mossa fulminea a prendere qualcosa dallo zaino. Ehi, no, è un biglietto da lavoro già, poca strada avrebbero fatto, via dal colpi di punta d'ombrellone a capo, avessi visto che ne esci due tre peso. Ma sai, quando noi siamo in acqua, no, a Platamona, magari anche lontani, no, e tanto è abbastanza basso il fondale, ti puoi allontanare abbastanza, e quando quello frega e si allontana in fretta, quando a rientrare dall'acqua, già lo prendi domani. Pensa, dicevano così degli italiani in America all'inizio del secolo, che erano considerati pezzenti, ladri, morti di fame, capito? Gli italiani negli Stati Uniti, anche ai tempi del Titanic, il film Titanic, non li potevano vedere, gli irlandesi e gli italiani erano considerati molto molto male, come vedi? Siamo nella stessa situazione degli americani. No, comunque non schifo. Ormai siamo saturi di questa cosa, no? Non possiamo più. La Sardegna è piena, io adesso mi devo andare a Cagliari. Sicuramente è peggio di Sassi, che se oggi alcuni Ligure, Trieste, via Roma, sotto i portici, no? Non fai altro che vedere negri, è invaso, Cagliari è invaso dai negri. E vabbè, quindi andiamo con Natalino, tu guida che si appompa, e invece mi lui sia normale, così forse meno fatica. Vabbè, a Cagliari sono già negri, vedi? Per conto loro. E vabbè, ci sono abbronzati, però come flusso, diciamo, di migranti ce n'è più lì che qua, che sia Sassari sicuramente. Eia. Mamma mia, comunque hai visto come fa l'Austria? Non ne vuole, dice allora chiudiamo le frontiere e mettiamo i soldati. Anche l'Ungheria sta facendo così, cioè vuol fare così, se arrivano lì c'è questi neri, chiudiamo le frontiere, così non entra nessuno, capito? E ce le dobbiamo grattare noi in Italia. Insomma, l'Europa è stata una formidabile inchiappettata, capito? Perché anche per questa Europa siamo tenuti ad accoglierli. Invece ci volevano frontiere chiuse come era una volta, prima dell'Europa. Boh. Infatti alla fine questa Europa non è che ci ha portato grandi... I prezzi si erano raddoppiati, ma colpa di Prodi, colpa di Prodi che ci ha fatto entrare in Europa. Mortavella, il subganimoso magnaccio che... Eia. Poi l'Ucraina, dice l'Ucraina voleva entrare nell'Europa Unita, ma non lo so quanto gli convenga. Infatti la Russia sta facendo invece pressioni per tenerseli, insomma, in parte della... quello che è, insomma, per tenere un po', tenerli nel tutto l'ambaradan russo, quelli vorrebbero entrare, non li conviene, perché se entrano in Europa li rifilano un 10.000 neri subito, il primo giorno. Vabbè, io voglio vedere fino a che punto arriviamo, veramente, perché non so più cosa pensare. niente, finisce, è fermo, non vuole stare finito. Né per il futuro né per il presente, guarda. Io diciamo che di massima sono adeguato. I miei 40 anni di lavoro li ho fatti. Quindi se tutto va bene. Siamo lì lì. Però dico, ma come fanno i giovani? Cioè, ma l'hai sentita la nuova legge che è nata dopo l'80 o prima dell'80, va in pensione a 72 anni. Cioè praticamente deve morire sul lavoro, così è. Ehi, come è morto babbo che non si è curito manco della pensione, capito? Sì, proprio devi morire sul lavoro, così non pagano anche la pensione, capito? Non pagano la pensione, cioè così almeno abbiamo la possibilità che muoiano prima, questi e non dobbiamo pagare pensioni, però i soldi ce li siamo presi. Capito? Ma quindi, cioè in Italia ne saranno entrate già decine di migliaia, no? Lo aspettiamo, poi ne arriveranno 1 milione, poi 10 milioni, e come va a finire? Come ha detto Claudio, come va a finire? Cioè arriva tutta l'Africa e qua alla fine cosa ci sarà? Una guerra civile ci dovrà essere per non farli entrare più. Alla fine non avremo più niente noi per dare a loro, capito? Non avremo niente noi per dare a loro, io ho una figlia di 30 anni, no? Non so che futuro possa avere questa ragazza, perché diplomata, c'è lavoro, grazie a Dio, però cioè, come si fa? Come si fa andare avanti in questa maniera? È impossibile, capito? Io sarei stato già 5 anni in pensione, anzi 6 anni. Invece è stata cambiata la legge, non bastavano più 35 anni i contributi, capito? Non ha più 40 di contributi, ancora devo travagliare, ancora devo travagliare. La legge sta fra 2 anni a vedere, ci rimando tutti in affanculo. Caro Claudio, la vedo grigia, non so come faranno proprio questi giovani, guarda. È un macello, già chissà se ne vedo io pensione, figurati gli altri. Io ho iniziato a lavorare, ci avevo 19 anni, quindi penso di aver già dato, sempre assicurato, sempre con i contributi giusti, tutto a posto, ci ho trovato tutto quello che ho fatto, la verità. Però è impossibile continuare ad andare avanti così, perché uno non ha lavorato 40 anni, penso che abbia dato tutto quello che deve dare. Capito? Quindi, anche va fino a 72 anni e andrà ancora a travagliare, no? Su capezzi, che non è che sono a fare piccolo, perché ho di rincarichi abbastanza, però mentalmente, fisicamente, in macchina ho sempre i 2 di batteria, latte e fare, e tira e molla, insomma, sono sempre quelle 6 ore e 40 normali, più giugno, luglio, agosto, sono colpi da 10-12 ore, continue, cioè non penso che uno a 72 anni possa fare il suo travaglio, non credo proprio. Ui, vai a 60 anni tu, che non sei un ragazzino, e non risenti perché ne risenti. Cazzo, noi mi lo facevo io, ogni lì da risori. Cazzo, e lo ribaro su, lo sabato e la domenica. Però la sei da risori, fisse, quando ero in quella ditta di Cagliari. Cazzo, Maria, non finiva mai, sa zurrabba. E adesso mi sono ricordato di te. Ti ricordi mi avevi dato quell'input per i marciapiedi qua? A vedere se era arrivato, è arrivato lui, ma che macoli, ieri hanno finito. Hanno tagliato tutta la roba che sporgeva da, che occupava i marciapiedi, hanno tagliato tutto il campetto, tutto interno e esterno, via Milano, via La Malfa. Tutto hanno pulito, in 3 camioncini, ma quelli del verde urbano sono. Ma lo so se l'hanno dato in appalto, no? Perché c'è scritto comune di Sassari se sono quelli del verde urbano, capito? Sì, c'era scritto autoparco, comune di Sassari, sì, le macchine hanno dell'autoparco. E i furgoni come guida Guittumi, quei camioncini cassonati. Quelli lì, i veri sono quelli lì. Sarà passato dottor Ali a Sanchini, con un po' di vergine e hanno tagliato di tutto. Hanno pulito tutto, non parito. Hanno pulito tutto, stanno finendo di fare l'angolo qua di via di via Melis, capito che lì c'erano degli alberi fichi che uscivano, quindi per questo hanno fatto tutto a falcetta con quella che taglia il rovira, quella forbice elettrica. Chi si vuole motosega vado vicino quella via, e allora verranno domani. Loro adesso hanno pulito tutto, portato via tutto il materiale, tutta la brassa, addirittura con la, ho visto c'era anche l'autobot, hanno fatto tutti i marciapiedi, insomma hanno fatto un bel lavoro, ma abbiamo molto di goccio. Ho fatto un centinaio di telefonate, l'ho fatto. Poi alla fine l'ho detto a quello che è sotto, già hai capito chi è, l'ex assessore. Ha mandato un'email all'altro assessore attuale, a vedere se l'hanno fatto un travaglio. Beh, te credo che l'hanno fatto, perché se gli arriva la segnalazione loro devono farlo per forza. Devi rendi conto, me, non è così. Poi se c'è la dottora Ilias, per forza ha fatto bene il lavoro. Le siepi passavano, io mi ricordo quando c'ero io lì in quel settore, c'avevano i tagliasiepi, tutto va via me. E passavo ogni giorno lì in via Milano, cazzo, quando lo facevamo, passava l'ingegnere della sicurezza per vedere se avevano messo bene i segnali e tutto quanto, che in chi cazzo si buona a curri. Sì, lì era parte traffico, il centrale. E ci sono appena tanto bene messi. No, fortunatamente quello di via Milano ha fatto le siepi, quelle che sono più all'interno. E in via La Malfa invece hanno fatto le siepi, quelle che uscivano dal marciapiede, capito? E quindi era metà di tutto. Va bene, dai, io me devo allontanare. Se ci siete ci sentiamo un quarto d'ora, scendo a portare a Filippo e poi risalgo. Marco lì, ti trattieni? Ok, dai, io già sono qui. Se infatti là mi mangio qualche cosa, dopo quando se ci sei dopo già, cioè se ci sono io, se non ho chiuso, se non è troppo tardi già ci dovrei essere. Avanti Marco lì. Ehi, c'è un break, non so se sia di propagazione. Claudio, io dovrei mangiare. Oggi non avevamo proprio voglia di mangiare, presto e sto per mangiare adesso. Comunque rimane tutto acceso qua. Credo che fossi in ferie, no, ma tu stai lavorando adesso, quando è che vai in ferie? Io? No, a settembre, Marco, sto rientrando perché un po' abbiamo tolto il lavoro grosso, e quindi ci stiamo alternando con i colleghi e ce ne stiamo rientrando, perché sta lì, capito, anche perché c'è fresco, quindi si viaggia bene. No, a settembre vado in ferie, vado dal primo sino al 15, una cosa del genere, ma a luglio-agosto lavoro tutto pieno, senza tregua, capito? Slot machine. Mamma mia, da scoppiare c'è. Poi adesso il caldo aumenta di nuovo, l'ho letto. Uff, che palle sta estate. Avanti Brecco. Lo stanno sovraccavallando la propagazione. Ho sentito Porto, coordinate. Come Claudio? Mi è sembrato dominatore dalla provincia di Trieste, confermi? Oh, qua ci sono questi spagnoli che stanno. Poi c'è gente dell'FM, non lo capisco, vabbè, pazienza, dai, tanto devo mangiare io. Ok, vai Claudio, se devi andare, da qua rimane tu acceso, pensa che è rimasto acceso da ieri il baracchino, ci cioè, siamo tornati da fuori, l'ho trovato acceso. Ma dove c'è un carino che ieri siete entrati, io sono arrivato alle 8 a casa, non ne avevo voglia, ho mandato un messaggio a Natalino di salutarvi, capito? Tutto qua. Va bene, dai, ci sentiamo dopo che vado a. Mi ha fatto ancora i frutti di busciacca del pranzo, questi bisogna domani. Di via dell'amministrazione se non vorrei imporsene manco un pranzo. Va bene, ci sentiamo dopo, dai, porto il cane e poi ci sentiamo. Ciao a tutti e due. E io? E dopo? Caro Natalino, tu fra poi invece devi cenare. Io sì, ma ho anche pranzato però. Hai pranzato? Allora normale, gatta, alla una ha pranzato. Caspita alla una. oggi, vabbè, oggi sono riuscito a alzarmi alle 11, siamo andati alla, a Piandanna, lì alla, all'ufficio delle entrate. Abbiamo fatto anche presto e ci siamo spiegati in meno di mezz'oretta. Che c'era l'uomo arretrata, ci ha dato la cartella da pagare in banca. Poi tornato a casa a mezzogiorno e mezza, boh, mi sono sdraiato sul letto e mi sono svegliato alle 4. Diciamo che ho dormicchiato, dai, un po' dormiveglia. C'ho questo sonno che non mi passa, è una cosa incredibile. La mattina è tragico alzarsi, chissà perché. Pure ho dormito stanotte. Beh, è logico, Marco. Cosa vuoi che ti dica? Il caldo lo fa quello. Come puoi dire anche io? Me, anche mia moglie è così. Noi stasera ci abbiamo fatto lo yogurt con la yogurtiera. Nei cinesi ti barattoli alla boccia. Buono, buono lo yogurt così. Lo faceva anche a mamma, poi si è buriata e ci ha buttato yogurtiera e tutto. E dici tu che è buono, cazzo, come ti rubasi la nonna della mia ex, bello amproso con latte intero l'abbiamo fatto, guarda, una bomba è. Ehi, certo, mangiate gli yogurt ci facevamo, ma uscirne dagli occhi, infatti poi ci siamo stancati e ci ha buttato tutto, mamma, ha buttato la yogurtiera. E per la matrice che yogurt prendi? Bella. Per la matrice, no, quella da mettere per fare lo yogurt. Che yogurt prendi? Yogurt intero vuole, se no esce mari, esce liquido, invece lì che è bello amproso. Non è per niente acido, guarda, è uscito buonissimo l'altra volta. Adesso stasera ne abbiamo fatte altre 7 barattoli. Buono, buono. Con quei vasettini e la yogurtiera, quella tonda con tutti i vasettini in tondo. Eia, proprio quella. Eia. È buono, quando è bello denso, io mi ricordo, ti ricordi quando negli anni 70, inizio 80 c'erano le latterie e vendevano il giotto, praticamente ha messo nel bicchiere di plastica e coperte con la stagnola, era bello denso, bello compatto, e purtroppo adesso non si può più fare a farlo, a venderli così, devono essere tutti confezionati con i dati sopra, è un pasticcio adesso. Cioè, magari hai più sicurezza che sia roba sana, ma non assai, no? E infatti, quando te la fai tu, almeno sei sicuro cosa ci hai messo. Eia. Ehi, certe volte, vabbè, qualche yogurt bianco lo prendo. Yogurt normale, no, però il vasetto da 500 grammi, lo sai che se me lo lasci in mano me lo mangio tutto in una volta, mezzo chilo di yogurt. E faceva quelle scodelle da latte, la nonna della mia ex, la buon'anima, no? Cata, era dei paesi, io si sapeva a vero. Quando arrivavo, ragazzi, me la offriva sempre. Eia. Poi vabbè, anche alla frutta mi piacciono gli yogurt, perché giustamente è anche più buono, però anche il bianco degno di notte, dai. No, ma dico, che yogurt intero metti come matrice, che marche usi, che ne so, Galvani, Arborea, Sterilatte, no, Sterilatte non so se esiste più. Quello Arborea. Sì. Bene Natali, adesso io mangio qualcosa, dai. Se no, mangiando così tardi poi non mangio nemmeno a cena, cioè non ha senso mangiare alle 8 e 4 ore dopo mangiare e fare la cena, non ha senso. Infatti lo mangio finché quando ne voglia, poi basta. Ok, qua lascio tutto acceso qua, E vabbè, aspettiamo che entri Claudio, là. Anzi, ti dirò che prima di mangiare devo togliere mondezza là qua. Adesso chiudo un sacco, tra poco i sacchi neri, dobbiamo dire addio ai sacchi neri, perché sulla nuova è uscito l'articolo a maggio, che dice, dice fra tre mesi, maggio, giugno, luglio e agosto. Ad agosto bisognerà usare sacchi trasparenti o semitrasparenti, capito? Così possono ficcare il naso in quello che butti, a vedere se, se fa la differenziata bene. Dopo ti entreranno in casa a vedere anche se fai la differenziata, uscite nella... già capito. Io la differenziata la faccio, ma questo di, caspita, che vanno a indagare se vogliono le buste trasparenti, io dove le compro le buste trasparenti grandi? Io non so chi le venda grandi, condominiali, o... Oh. Dal risparmio a casa, le vendono di tutte le misure. Risparmio a casa, forse anche da Mauris. Ecco, da Mauris non vado mai, non vado quasi mai, perché no? Non mi attira, però lì hanno buste di tutti i tipi. A me basta che siano sui 100 litri trasparenti o comunque semi-trasparenti, che si veda la roba che c'è dentro. Così me ne escono, non ti dico da dove, se fanno i controlli. Eita. Dice devono mettere le telecamere pure per pizzicare eventuali trasgressori. Sì, quelle le hanno messe in certe zone, soprattutto limitrofe, no? Hanno beccato gente che buttava roba per terra, proprio roba per terra, mi materassi, gabinetti, buste, e infatti hanno visto le targhe e hanno fatto multe da migliaia di euro. Più che altro per le discariche abusive, non per i cassonetti, perché sai, quando vai a piedi a buttare a Mondeccia non è che c'è la targa sul sedere, ci manca solo quello. Guarda, ci sono i vigili urbani, Marrancelli, guardie e cosufre per la Mondeccia, si sono tutti coalizzati per multare al nastro. Eia, le zoofile chissà perché mi stanno particolarmente sulle scatole. Vabbè, cosa ti volevo dire? Guarda che hanno beccato a Sassari anche gente buttando amianto, li hanno sorpresi buttando amianto, dice che gli hanno fatto mangiare. Già la prendono buona qui. Quello è un casino grosso, quelli multe da migliaia di euro proprio. La gente se ne frega, perché l'amianto costa, ma a dirlo allora cercano di farlo fuori in altro modo. Purtroppo. Io avevo un amico, no? Che studiava leggi, che era tutto fissato con le leggi, tutto TTT, no? E poi quando cambiava la lavatrice o lo scaldabagno, capito, mi aveva detto che per non spendere lo buttava nelle campagne, capito? Trovava una campagna, una stradina di campagna e ci buttava la lavatrice in mezzo alla campagna. Io invece non, porcate le gele, non ne ho mai fatto. Quando dovevo buttare una lavatrice o una scaldabagno, chiamo la motocarrozzetta, pago quello che c'è da pagare e se la porta via. Schifezze del genere non ne ho mai fatto, invece lui che era tutto fissato con le leggi, come vedi, la gente è a contusoio. E io stavo per dirglielo, bravo sei, tu che sei tutto fissato con le leggi, fai queste schifezze a inquinare l'ambiente. Tu pensa che Sassari è tutta una discarica abusiva. L'agromi. Quando ero in quel settore io usavo i frigoriferi, lavatrici, di tutto. Poi facevamo la fotografia prima, come trovavamo la discarica, no? La pulivamo e dopo torna le fotografie, perché noi dovevamo dare conto al dottore, dovevamo dare. E noi sì che lavoravamo, ma travagliavi, ruberomi, a camera la roba se la buciavami. Lì via Milano, dove ci sono quella fila di cassonetti, l'avevamo anche con la ruspa, siamo andati tutta pulita. Beh, la settimana dopo era peggio. Eia, lo so, avanti 5-10. Santiago, tuo mezzo, radio buona, abbastanza buona, ma chi sei, Vittorio? pressioni leggermente basse, no, corposa diciamo. Ok, io, vabbè, qua sono Marco, zona Viale Trento, Santiago 8 e mezzo, ok? Ciao Vittorio, ciao, buona serata, buon lavoro. Ehi Natalina, c'è un gettito di roba, ma io non capisco perché la gente non va all'autoparco lì in via Montello a fianco alla questura. Io quando devo buttare televisori, elettrodomestici vecchi, qualsiasi cosa, ferro, materiale ferroso, lo facciamo altro che caricare le macchine, se poi mi dà aiuto mia zia che c'ha l'imperiale, se roba lunga, andiamo in via Montello, è gratis. Sono molto gentili, anche ti aiutano a scaricare se roba pesante. Io non capisco perché quello di buttare la roba nelle campagnette oppure nelle zone limitrofe a Sassari, non lo capisco proprio. Presi arrestati vogliono. Cioè gratis, via Montello è gratis, certo per l'amianto è un altro discorso, ma d'altronde ormai chi è che ha amianto? Certo in questo palazzo non ce n'è. Il tetto è un terrazzo, proprio un terrazzo. Sai quelli catramati, no? Purtroppo il problema, questo dell'amianto. A meno che non c'è una campagna di proprietà e te lo interri sottoterra, gli fai una colata di cemento, lo imprigioni nel cemento, mi, così almeno non esce. Ma se ti dica, se proprio non vuoi spendere migliaia e migliaia di euro, Tu pensa di quanto è pericoloso l'amianto, manco quelli di via Montello lo possono ritirare, perché io ero in quel settore e amianto non ne potevamo toccare. Eia, vabbè, la fanno grande, mi, perché basta rivestirlo con quella sostanza rossiccia che lo sigilla e non esce più fibra di amianto. Però lo devi dare sempre ai centri che lo smaltiscono. Qualcuno, ho sentito discussioni sul forum, che uno lo voleva, per non spendere soldi, lo voleva buttare nella sua campagna, nel suo terreno, fare una base di cemento, mettere l'amianto e poi fare un'altra collata di cemento, fare come un sarcofago di cemento, in modo da che non si disperda, capito? Ma non so se si può fare, cioè a fini legali. È abusivo. Lo so, non lo puoi, in teoria almeno, non lo puoi buttare nemmeno nel tuo terreno, anche cementandolo mi. Vabbè. E poi pensa che si attaccano molto, vabbè, a queste cose, poi a Napoli buttano tonnellate di rifiuti, di bidoni con sostanze chimiche pericolose. Sai, pagano, c'era anche su Gomorra, nel film Gomorra, pagano gente povera che ha campagne e interrano sostanze altamente tossiche, bidoni su bidoni, e poi li ricoprono con la terra, capito? E lo fanno a Napoli, e lì c'è il malaffare, c'è l'andrangheta, fanno schifezze anche di quel tipo, capito? Anche nelle cave abbandonate, ma tonnellate di sostanze tossiche, bidoni su bidoni. Tu l'avevi visto, piuttosto Natalia, tu l'avevi visto il film Gomorra? Sì. Ehi, a te è piaciuto? Ehi, sto cominciando a prendermi un po' di questi film così. Ma tu ce l'hai Emule? Sì, però non sono riuscito a farlo funzionare. E allora ho usato Torrent. Sì, perché bisogna aprire due porte sul router, o come si chiama. Adesso tu e la fibra non so come sia. Io sul mio modem, diciamo, il modem Pirelli, ho dovuto aprire due porte, una porta UDP e una porta TCP per lo scambio dei dati. E devi mettere proprio il numero della porta, no? Poi una volta che l'hai aperto puoi viaggiare alla velocità massima in base agli utenti, no? Perché lì sai come, più utenti ci sono, più magari scarichi un film più velocemente o un telefilm. Io mi sto riguardando in questo periodo Breaking Bad, non so se lo conosci, è un film che parla di un traffico di metanfetamina poi sto guardando Californication, che è tutto una, è una cosa di tozzeria. Ogni telefilm ci sono gente che trompa, cose sessuali, sono molto spinto come telefilm. E poi sto cominciando a scaricare Dr. House, perché non lo danno da un po', mi voglio riguardare i televisi. Poi li cancello però e non li tengo, io lo scarico, ma lo guardo e lo cancello, perché tanto, e se no ci vorrebbe un hard disk da 10 terabyte per tenere tutta quella roba. Poi film di fantascienza belli, per esempio ho scaricato Poseidon, che è un prequel del film Alien, quello del 79. E dopo Poseidon, fra un po' di tempo, scaricherò Alien Covenant, che è lo stesso il prequel, cioè avvengono i fatti prima del film Alien del 79. Abbiamo solo gli interessi francesi, la è temporanea, sicuro. Comunque Natalità, sono le 8, adesso mangio, poi devo preparare un bel po' di mondezza da buttare, un po' di cartone, un po' di vetro che ce l'ho da buttare, e così faccio una, un po' di differenziata. Se c'è gente, lo sai che mi ha raccontato un amico, hanno fatto un controllo proprio lì dove ci sono, dove c'è il triangolo, dove ci sono i due pari, ci sono i cassonetti. Uno si è rifiutato di dare i documenti a Baracelli, non sapendo che loro, è come fosse un corpo di polizia, si è rifiutato di dare i documenti, capito? Quindi hanno dovuto chiamare, trattenerlo lì, chiamare i carabinieri e farceli dare a forza. Uno li ha quasi insultati, cioè credono che i Baracelli siano dei birla qualsiasi. Sei tenuto a dare i documenti, loro hanno funzioni anche di polizia, non mi ricordo se giudiziaria o DPS o DPG, non me lo ricordo. Capito? C'è gente che è strafottente, non teme nessuno, non teme né polizia né carabinieri, fa il comodo suo, o almeno crede di farlo, poi arriva la polizia e li stanga malamente. Vabbè, anche io sto mangiando, dai. Ehi, Natali, buona cena, dai. E purtroppo se entra Claudio stiamo mangiando, vabbè, spero che non entri qualcun altro, ok? Buona cena, buon tutto, se non ci sentiamo dopo ritiriti salzato, ok? Ehi, ciao Marco, lì là, adesso continuo a mangiare e via, e ci sentiamo più tardi al limite, se non ci sentiamo di casi altrettanto. Ok, ciao ciao, ciao all'ascoltore anche, ciao. Bene, ricordo. Allora.